avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà infâme bail, ça fait déjà infâme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus oggi que jamais. Mi verrebbe di domandare chi mi ascolta a quale santo si raccomanda. Naturalmente sarà una vastissima parte del pubblico che dice: noi siamo laicamente orientati e quindi non abbiamo santi, ci raccomandiamo a noi stessi, alla nostra forza di volontà, al nostro impegno interiore, a una serie di personalità specializzate nei vari campi delle applicazioni concrete del pensiero umano, e quindi quando stiamo male andiamo dal dottore, quando abbiamo un'ansia ci prendiamo una pillola, quando abbiamo apprensioni per il nostro futuro cerchiamo degli analisti che ci facciano una situazione concreta e razionale per permetterci di fare le scelte giuste. Totalmente rispettabile questa posizione. Però io sono convinto che per retaggio familiare, per tradizione locale, per qualcosa che comunque fa parte del nostro DNA di persone collocate e connotate, contaminate dalla cultura occidentale, tutti noi comunque in alcuni momenti della nostra giornata, della nostra esistenza, ci raccomandiamo a qualche santo. Sì, perché i santi li sentiamo molto vicini a noi, qualunque sia il rapporto che abbiamo con la religione, qualunque sia la nostra affezione per la pratica religiosa, il santo è proprio vicino a noi, perché il santo è un uomo come noi, è una persona che inizia la sua avventura esistenziale in maniera totalmente normale, e poi nel corso della sua vita, chi prima, chi poi, chi per illuminazione, chi per fulminazione, chi dopo una vita di totale e concreta conoscenza di tutte le possibilità che dia la natura umana, è diventato santo. La grazia l'ha attraversato, si è illuminato e improvvisamente ha gettato ancora da vivo un occhio nell'altra dimensione, in quella spirituale, in quella dell'assoluto, in quella in cui molti credono, molti sperano, molti fanno affidamento, molti considerano l'unica vera dimensione per cui vale la pena di avere la consapevolezza di esistere, e altri considerano una costruzione fittizia, un frutto dell'immaginazione, una maniera per dominare le coscienze o per consolidare un potere temporale. Rispetto tutti i punti di vista, però sui santi no. Sui santi possiamo fare uno strappo alla regola, possiamo abbassare anche le nostre più ferree convinzioni. Il santo non fa male a nessuno, il santo può far solo del bene, il santo è quella cosa racchiusa in un piccolo tabernacolo portatile che è un santino, che è un fogliettino di carta, che ha una sua storia, che ha una sua iconografia, che ha una sua tradizione, ha un suo senso grafico che ci ricorda appunto fanciullezze, passaggi assieme anziani nonni o genitori o amici, corse scalmanate sui sagrati delle chiese, lunghe lancinanti ma anche divertenti, ore passate in esercizi spirituali, in preparazioni di comunioni, oppure preti, amici o amici degli amici o amici dei preti che ci mettono sempre questo santino in mano da mettere nel portafoglio, che c'era sempre un immaginetta ieratica di un uomo, di una donna, sempre spesso in paramenti di un'epoca indefinita che è l'epoca della santità delle nostre iconografie più care. Aveva sempre un saio, una tunica, qualcosa di coloratissimo, aveva sempre lo sguardo verso il cielo, c'era sempre un raggio di luce che dal cielo dimostrava l'affezione, il patto fra l'assoluto, l'inconoscibile e questo essere umano come noi. Nelle migliori rappresentazioni di santi che io ricordo, il santo aveva anche vicino l'oggetto del suo martirio. Quindi i migliori santi hanno delle ruote dentate, delle graticole infuocate e delle seghe dentate, degli arpioni, dei chiodi e delle spade, dei coltelli. i santi avevano sempre, continuamente, eternamente, il segno dell'oggetto contundente che li rese tali, che li fece passare attraverso il martirio, come testimoni di qualcosa che è molto difficile da mantenere nella vita quotidiana. Beh, che significato per voi la santità? A quali santi vi raccomandate? Cosa avete nel vostro portafoglio? Io ve lo posso dire cosa ho nel mio portafoglio, non me ne vergogno. Forse in questo che ho addosso oggi no, ma in un portafoglio che ho cambiato pochissimo tempo fa avevo da anni un santino di San Giuda Taddeo, non so manco come mi capitò. Ah sì, mi ricordo, una suora mistica ai tempi che ancora faccio l'università in Umbria me lo dette, c'è ancora scritto a penna le indicazioni per la novena che mi scrisse questa santa donna, non so quante preghiere, quante volte al giorno, al mese, alla settimana, e serviva per allontanare, non ricordo, forse allora ci fu una fidanzata con cui mi ero lasciato, era doloratissimo, avevo avuto 19 anni, 20 anni, non mi ricordo. E questo santino era per me mangia preti, infame perugino, impegnato a percorrere avanti e indietro il corso cittadino, figuriamoci cosa me ne poteva importare. Però in quel momento mi attaccai a quel santo perché pensavo potesse avere un senso per ricostruire la mia storia d'amore lacerata. Poi ho due cosettini di cellophane sigillati con dentro dei pezzettini di tonaca di Padre Pio. Sì, perché c'era un nostro collega che era molto devoto a Padre Pio, che 10-15 anni fa ne portava vagoni in tasca, ogni collega che incontrava gliene dava uno, e c'era la diceria fra noi infami che disfarsi di quel santino avrebbe portato malissimo. Quindi io, che lo incontrai due volte, ne tenni due nel portafoglio, mi sono portati dietro per altri 15 anni 20 anni. Vedete, qualcuno questa potrebbe vederla come una debolezza, io trovo come un grande arricchimento, una grande apertura a tutte le dimensioni, anche quelle non conoscibili, anche quelle non percepibili. 800240024, proprio in questi giorni che stiamo attendendo 1 milione di persone qui a Roma per la beatificazione di Papa Wojtyla, voi a che santo vi attaccate? Ma come? Non ti sei fatto niente? Ha stato Santo Eusebio! Ha stato Santo Eusebio che l'ha preso al volo! Ringraziamo Santo Eusebio! Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. È il demonio! Annidatosi nella gola del fanciullo, ostruiva il passaggio di Gesù. Non lo toccate che è ancora fresco, non con la dita in bocca che vi avvelenate. E il comunicando sconvolto e insipiente fu colto. È chiaro che sulla devozione popolare, sul culto dei santi, sulle reliquie, sui santuari, sulle processioni, sulle credenze, sulle dicerie, si può ironizzare in una maniera pessima, profonda e dissacratoria. Però io provo una grande tenerezza e un grande senso di rispetto, e a volte anche una grande partecipazione, dipende dalle fasi della vita. Noi ci riconosciamo devoti a tanti santi nei momenti di bisogno, ci riconosciamo animati dal più fiero spirito laico quando tutto ci va bene, quando non ci serve nulla, quando il nostro orgoglio umano è sufficiente a sostenere ogni vicenda della vita. Beh, questa mattina vorrei parlare di santi, inizio a farlo con Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, io ho un santino che un collega musicista mi ha portato da New Orleans, in Louisiana, e questo santino, che è una classica immagine, credo settecentesca, di Santa Cecilia, appunto protettrice dei musicisti, e c'è tutta una bellissima preghiera, tutto quanto in inglese, in fondo piccolissimo c'è la stampa Made in Italy. Beh, chiaro, noi siamo la più grande fabbrica di santi che esista nell'universo. Esatto, era semplicemente così una nota simpatica. Ecco, vorrei capire in questi pochi istanti che ci accomuna questa sorta di atavico senso di rispetto per il santino nel portafogli. Tutti lo portiamo, non ce ne vergogniamo, io potrei un domani essere perquisito, nel mio portafoglio troverebbero poco più che qualche santino, e quello probabilmente per qualcuno è un compromettente segno di cedimento. Per me fa parte della mia tradizione, del mio modo d'essere. Non ci trovo nulla di limitante, ma ne trovo che questo questo fa sì che io debba andare in giro con corporali a fustigarmi, a tagliarmi, a fare il vattiente o a cercare di convincere gli altri che in realtà questa vita è da disprezzare perché ce n'è un'altra. Certamente, cioè, poi vige sempre anche un po' quella vecchia legge che dice io non ci credo, però male non fa, per cui lo teniamo lì accanto alla carta d'identità che non si sa mai. Insomma. È la grande scappatoia che ci dà la nostra religione, diciamo la verità. Chiaro. Sappiamo che c'è sempre un istante di lucidità in cui ci si può pentire di tutto e fare il grande salto con leggerezza. Questo in fondo è la caratteristica principale, singolare, che ci fa voler bene anche la nostra tradizione religiosa. Grazie Paolo. Marco. Nicoletti, buongiorno, piacere parlare con lei. Ascolti, per quanto riguarda i santini, io anch'io ho il pieno portafoglio, non li butto mai via, anche perché mia nonna, mi ricordo, mi diceva sempre di non buttarli mai. Porta malissimo, anche a me me l'hanno detto. Piuttosto conservarli o al massimo bruciarli. Vanno bruciati. Poi come io vorrei vedere a casa dove si brucia un santino, nel fornello del gas, si accende una candela di quelle profumate, come si fa? Non saprei. Infatti non l'ho mai fatto e seguiamo questa superstizione e teniamoli. Insomma. Allora guardi, le faccio un'altra domanda maliziosa e spero mi possa... Maliziosa, cioè... In questi giorni anch'io sono assatanato da un problema. Sì. Dove si brucia l'ulivo benedetto dell'anno prima? Perché ho una frasca a casa gigantesca, ho due figli, una moglie, ognuno vuole al suo ramettino, portiamo quello nuovo e il giorno delle palme, e quello vecchio ancora giace in un angolo, nessuno ha il coraggio non di buttarlo nella spazzatura ma di bruciarlo. Come si brucia un mezzo albero d'olivo dentro una casa civile in cui non ho nemmeno un caminetto? Sinceramente non so risponderle perché anch'io ho lo stesso problema. E forse mia foglia mamma... dopo foglia in sei mesi si riesce a bruciare tutto. Lei pensi che mia mamma tutti i Natali mi porta a casa il santino per me, per la mia ragazza, per mio nipote, per mia sorella, per tutti, quindi alla fine è sempre una dura guerra anche dove metterli, però c'è questa superstizione che è più forte di noi. Ma superstizione è un brutto termine, è una sorta di cautela che ci viene, ormai ci rimane nella nostra tradizione orale, quindi perché cosa costa? In fondo teniamo tante cose in casa inutili, tenere il santino non è male, anche poi da un punto di vista diciamo del racconto, della storia, il santino è molto bello, è un microcosmo se vede il santino. Io essendo umbro ricordo il giorno di Sant'Antonio che si portano le bestie a benedire sul sagrato della chiesa, il santino di Sant'Antonio è favoloso con tutti gli animali intorno, o Sant'Antonio tentato nel deserto, ancora meglio, questo frate col barbone scarnificato che si schermisce di fronte al diavolo che lo tenta con una donna discinta, che poi erano, le vedevamo come delle signore grassissime e non ci dava nessun pensiero peccaminoso, con in mano cornucopie da cui escono frutta, cose meravigliose, cose d'oro, e lui resiste da buon padre del deserto a tutte queste tentazioni. Pensaggio, si potesse anticipare un po' che pratiche che la grazia. Non c'è bisogno, capisci? Non c'è niente. Ma fanno te fa. San Gennà, buongiorno. Sta parlando con frate qui. San Gennà, ci stiamo a spiegare. Io faccio parlare. Però tu già sai che fai, sono cliente e voglio trattamento. San Gennà, tu si mi fa parlare. Io faccio parlare. Però tu già sai che lo che fai, cioè, cerca a me non fa succedere la disturbata in da chiesa. Ma tu già sai, sono cliente, c'è bisogno. Ma tu vuoi, San Gennaro? Vuole chiedere di morire. No! Cioè, giustamente lui non vuole morire, dice, ma leva a me sta valle di lacrime, non ce la faccio. Impagabile il ricordo di questo... rapporto a tre fra la Lorena, Troisi e San Gennaro. Ognuno personalizza a punto tale il santo, ma è tipico del culto di San Gennaro, da tirargli la giacchetta dalla parte sua, come se un santo avesse a disposizione un numero limitato di attenzioni o di grazie, e se sta a ascoltare uno non sta a ascoltare l'altro, ma questo penso che non faccia male, non sia negativo, non tolga nulla a nessuno. Abbiamo al telefono il professor Dino Carpanetto. Professore, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Professor Capanetto è docente di storia moderna all'Università di Torino, ma è autore di un volume, Santi e Patroni, dizionario biografico dei patroni di tutti i comuni italiani e di altri santi, edizione di Agostini 2006. Allora, professor Capanetto, ho voluto che lei ascoltasse una prima sventagliata di pareri a caldo, sollecitati all'istante sull'idea del santo, è venuto fuori comunque. L'idea del santo accompagna anche gli spiriti che apparentemente sono più distanti da una pratica religiosa, di un'attenzione costante alla religione. Lei che ha analizzato così profondamente tutti i nostri santi locali, se ne fa una ragione, se lei si è fatta questa domanda? Devo dire che una ragione me la sono fatta, ma prima di spiegare la ragione che me la sono fatta, volevo un po' commentare quello che lei ha detto in apertura, perché è stato molto interessante. Io devo dire che non provo da storico un atteggiamento, diciamo, di sottolineatura degli elementi un po', come dire, pagani che ci sono in alcune espressioni di questa devozione laico-religiosa che sia verso i santi. Mi sembra che il santino nel portafoglio possa essere molto simile all'amuleto che altre culture. Il nostro senso religioso è basato anche su questi retaggi inconsapevoli. Su segni di religiosità e su segni di questo rapporto, ma mi sembra che tutto ciò dimostri proprio chiaramente come il concetto di santità sia una forma di rappresentazione molto antica del rapporto tra uomo e Dio, sia una forma quasi di materializzazione di questo legame. Di cui abbiamo umanamente bisogno noi, perché il cielo e la terra, e che risponde in fondo a un radicato bisogno umano. Ma non è tanto questo che a me preme evidenziare, e non sono certamente questi gli aspetti in qualche modo su cui posso riflettere come storico. Mi sembra piuttosto che la santità corrisponda, così come vissuta in ambiente cattolico, a una forma di religiosità che è stata definita dalla Chiesa nel corso dei secoli, che non appartenga universalmente in tutti i tempi, in tutte le culture, alla forma precipua del cristianesimo. Lei pensi ad esempio al fatto che la definizione di santità, così come noi l'abbiamo radicata nelle nostre coscienze, l'abbiamo praticata, la sentiamo viva, amica, presente nella nostra vita quotidiana, sia in realtà il frutto di una strategia della Chiesa nei confronti tradizioni religiose che erano state minacciate dalla Riforma protestante. Ad esempio, nell'ambito della cultura protestante, la visione della santità come mediazione tra uomo e Dio non esiste. Lutero invita drammaticamente a misurarsi col problema della salvezza, cercandola nei testi e affidandosi a un disegno di Dio. Ed è questo un elemento di religiosità che è molto esterno alla nostra cultura, ma che non è una religiosità rispetto alla quale la Chiesa non ha dovuto fare i conti. Però sa, i santi, ripeto, nella nostra fallace natura umana, nella nostra poca predisposizione a dimenticarci degli aspetti materiali e mettere la nostra attenzione, la nostra coscienza in un concetto di assoluto, il santo è la mediazione in fondo meno dolorosa e anche più piacevole. Noi siamo grati quando abbiamo l'idea di un santo, quando entriamo in una chiesa e vediamo queste statue, poi ognuno ha i suoi sensi estetici. Io sto vedendo le mediazioni contemporanee rispetto ai sintomi, come lei diceva, paganeggianti della santità. Vedo i ricordini di Papa del beato, quasi beato Papa Wojtyła, costruiti in Cina e venduti a prezzi esorbitanti intorno a San Pietro. Sono delle orrende cose di plastica, e rimpiango i santini della mia fanciullezza, rimpiango questi ricordi, queste statue pittoresche, coloratissime, fatte piene di serpenti, di spade, di cuori trafitti, di sguardi e di occhi tenuti sui piattini. Ma sai quanto mi sono impressionato io da bambino con Santa Lucia che teneva gli occhi nel piattino. Però non me la dimenticherò mai, è qualcosa che ricordo profondamente. Posso fermarmi un secondo, professore? Che c'è Don Giuseppe che mi chiama e deve rispondere alla mia domanda che avevo buttato lì, anche impropriamente, all'ascoltatore. Don Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Lei è parroco di cosa? Sì, sono parroco di un piccolo paesino della provincia di Enna. Ecco, quindi può rispondere alla domanda mia su come si brucia l'olivo benedetto? Sì, praticamente, benedetto. Allora, con gli ulivi dell'anno precedente si fanno le ceneri del mercoledì santo, quando si mettono le ceneri. Ma io a casa dove lo brucio? Ma e lo devi portare in chiesa, il lunedì o il martedì. Va riportato indietro? Sì, il lunedì o il martedì va riportato in chiesa e poi il parroco provvede a bruciarlo e poi benedice quelle ceneri ulteriormente, poi li pone sul capo dei fedeli il l'anno mercoledì dopo. Delle ceneri. No, lo stesso il giorno dopo. Ma scusi, le palme si prende il giovedì, che ormai le ceneri sono già state. Le palme, allora, le palme di quest'anno, adesso le ritiene tutto una settimana fa. Sì, le tiene tutto l'anno. Sì. L'anno prossimo, quando si avvicina il mercoledì delle ceneri... Ma dopo c'è un periodo scoperto. Ma sto senza palme dopo parecchi giorni. Sta senza palme 40 giorni. Dice niente. Ma mica è un magico. Io a casa, da quando sono bambino, ho sempre avuto l'ulivo in casa. L'ulivo in casa ci ricorda che dobbiamo essere persone di pace, mica dobbiamo essere persone che si affidano a questi segni feticisti. Io guardi, ho questa debolezza, ma penso non essere il solo a averla. Guardi, è uno dei pochissimi ancora ricordi che ci sono di pratiche molto più intense. Ma sì, mi sentirei a disagio non avere l'ulivo in casa per qualche giorno. Solo per 40 giorni. Va bene, comunque adesso ho capito com'è il meccanismo, come funziona. La ringrazio Don Giuseppe. Professor Carpanetto, io non ho mai pudore di esporre anche le mie debolezze, però vede come in realtà ciò che di profondo ci trasmette la coscienza religiosa in realtà si attacca a dei comportamenti che è vero, somigliano a delle superstizioni, ma sono quelli che ancora tengono in vita un nostro senso che tutta la nostra esistenza non si esaurisca semplicemente negli aspetti materiali quotidiani. Certamente, la santità risponde a questo bisogno di credere che è uno dei dati sicuri dell'esperienza umana. Però quello che ritengo fuorviante nel discorso che fa lei è ritenere proprio questo dato come un dato universale. In realtà la santità non è soltanto una questione di riti, di cerimonie, di feste, di credenze, di legami sentimentali e profondi tra il credente e Dio, è qualche cosa di diverso, cioè la santità chiama in causa tutte le definizioni di ortodossia, di definizione di un'autorità del pontefice, di infallibilità della Chiesa, che sono state discusse e definite dalla Chiesa a partire dalla Controriforma, dalla metà del Cinquecento. Perché lei sa che i santi che lei può avere nel portafoglio, che molti fedeli cattolici hanno nel portafoglio, sono santi definiti dalla Chiesa. Ci sono tante altre figure di mancati santi o di santi che non hanno raggiunto la definizione di santità per tante ragioni. Da questo punto di vista esiste, mi passi l'espressione un po' brutale, una politica della santità che è servita e serve tuttora a definire in termini ufficiali e universali qual è il tipo di devozione e di fede che la Chiesa attraverso il meccanismo della santità intende promuovere, e intende promuoverla legittimandola agli occhi dei fedeli, inserendola all'interno di una tradizione cattolica. Cioè, voglio dire, la santità risponde a una strategia che la Chiesa esercita. Non l'ho interrotto, professore, perché sono perfettamente d'accordo e lo so. Quello che dicevo io, quando espongo innanzitutto le mie personali sensibilità, lo faccio a mio rischio e pericolo come un caso isolato, non da rappresentare come esempio assoluto, questo chi mi ascolta lo sa bene, ma la consapevolezza che c'è nel cultore del santo, nel colui che porta semplicemente il santino, nel colui che si raccomanda al santo in alcuni momenti, secondo me passa un po' oltre il giusto, serio, concreto e senz'altro auspicabile meccanismo che c'è nella fabbrica dei Santi. Però ci fermiamo soltanto un istante, che do la linea alle informazioni della borsa e riprendiamo con lei questo interessante discorso su cosa ci sia di reale, di concreto e di strategicamente coerente dietro al santino che noi forti dell'imperfezione della nostra concezione dell'assoluto ci portiamo nel portafoglio. Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Un forte trauma cranico e lesioni gravissime. Giunta in ospedale, la ragazza fu subito messa in coma farmacologico, ma senza alcuna speranza di guarigione. Nella disperazione, i genitori pregarono Padre Pio. Dopo 48 ore la ferita alla testa si chiuse da sola. Ancora oggi i medici non riescono a spiegare scientificamente l'improvvisa guarigione. Fu un miracolo di Padre Pio. La parte superiore del teschio era scheletrita, in parte scheletrita, i tessuti ci sono tutti, il mento perfetto, il resto del corpo si è conservato bene, si vede benissimo il ginocchio, le mani, i mezzi guanti, le unghie, se Padre Pio mi permette, è come se fosse passato dal manicure. È molto probabile che sarà posta 800 24 00 24. Oggi stiamo parlando della percezione del santo nella nostra comune e diffusa sensibilità. Stiamo ricollocando e collocando la santità come elemento fondante, comunque uno degli elementi importanti della pratica religiosa, ma stiamo anche parlando di quello che per chi mi ascolta questa mattina significa avere un santino nel portafoglio. Atto casuale, atto molte volte dettato da aspetti legati a superstizioni, residui pagani, diciamo quello che vogliamo, ma io considero che è sempre meglio tenere il santino e confidare nel santino piuttosto che essere totalmente indifferenti o totalmente chiusi alle infinite possibilità che può avere la nostra percezione, la nostra coscienza di esistere. Sentiamo l'ascoltatore Ivano. Ivano, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, ascoltando poco fa la descrizione della ricognizione sul Salma, penso di Padre Pio, Padre Pio sì, sì. Mi ricordavo lo sguardo di orrore di un amico di Hong Kong quando anni fa lo portai a visitare Siena e in una chiesa gli indicai alcune reliquie di Santa Rita, credo. Santa Rita è veramente terribile, c'ha quel piede nero tutto storto, mummificato, un'altra cosa che da bambino alimentò molto i miei incubi. Io invece da bambino avevo gli incubi per via del santo di Modena, San Geminiano, che come scheletro è conservato nella cripta ed è visibile, quindi quando mi portavano a vedere San Geminiano e vedevo sto scheletro avrei voluto essere dappertutto. Però ha un senso anche quello. Piero Camporesi ha scritto libri su questa sorta di carne del santo, questo nutrimento di materia organica attraverso cui è passata la grazia. Quando morivano i santi nel Medioevo le folle li depezzavano intingevano fazzoletti e pannicelli nel liquame del cadavere per portare a casa un po' di santità. Quando morì Papa Wojtyła, io ricordo che in realtà forse fu io che inventai il termine reliquia digitale, fotografavano con i telefonini l'immagine digitalizzata della salma del Papa che campeggiava in piazza San Pietro. Lei invece? Io invece da agnostico ho nel portafoglio un santino di Sant'Antonio da Padova che mi diede mia nonna, me lo mise in mano quando partì per andare sotto le armi, si parla di 33 anni fa, e mi disse portatelo con te, non si sa mai. È un santino addirittura molto vecchio, anche perché è del 1912, e dietro c'è attaccata una bustina trasparente con una specie di dischetto frastagliato con disegnato il cuore, un cuore cinto dalla corona di spine, una croce sopra, e in un italiano arcaico c'è scritto fermati, il cor di Gesù è meco, venga il regno tuo, cioè addirittura una specie di cosa che avrebbe dovuto proteggermi, non si sa bene da quali rischi. Ma beh, è una sorta di meccanismo, è un antifurto dell'anima, molto complesso, diciamo, cioè oltre al santino ha il cuore articolato, che però sai, sono meccanismi che possono sembrare fanciulleschi e banali, che però ricordano attraverso in forma metaforica, in forma simbolica, anche in forma fortemente emotiva, quelli che sono precetti ben precisi, come ci stava spiegando prima il professor Dino Carpanetto, che è docente di storia moderna all'Università di Torino, che ha scritto un libro su Santi e Patroni, un dizionario biografico dei patroni di tutti i comuni italiani. Professor Carpanetto, mi rendo conto che sto insistendo nella mia visione superficiale e un po' fanciullesca della santità. Ci riporti in termini concreti di come è cambiata però questa percezione? Io ho citato Camporesi, ho citato i grandi santi, le reliquie del passato. Oggi viene esposta in Piazza San Pietro, per la nuova beatificazione, un'ampolla con il sangue delle trasfusioni, che trovo che sia qualcosa molto legato alla modernità. Una volta il sangue del santo era quello zampillato da un martirio, quello che appunto veniva prelevato quando si creavano reliquie di qualcuno morto in odore di santità. Ma mi sembra che nella sostanza non sia cambiato molto, in quanto tra esporre la reliquia di un santo nella teca di una chiesa o appunto in Piazza San Pietro la bolla per le trasfusioni, l'ampolla per le trasfusioni, non sia molto diverso nella sostanza. Entrambi gli elementi richiamano il fatto che ci si affida al santo o al beato credendo nel suo potere taumaturgico, credendo nell'efficacia terapeutica che questo può risolvere. Il mezzo di questa efficacia terapeutica e taumaturgica può essere il più diverso, può essere la reliquia, può essere l'iconografia, il sepolcro, come accadeva nel Medioevo e per tutta l'età moderna, o come accade tuttora, può essere benissimo anche il ritratto, l'iconografia. Questo è un elemento persistente. Beh, pensi, mentre la sto ascoltando, ho in mano un volumone, I Santi che guariscono, che uscì per PM qualche anno fa. Certo. Ogni patologia minima, dal mal di testa, l'unghia incarnita, ha un santo di riferimento. Quindi nei secoli ad ogni malattia è stato trovato il santo e comunque rispondesse o desse conforto rispetto a quella malattia. Certo, ma in questo sta un segno antico della Chiesa, un segno quasi direi medievale, cioè le reliquie, il simbolo o comunque la rappresentazione del santo sono un vero e proprio tesoro per la Chiesa, un tesoro che ha una duplice valenza: da una parte un tesoro spirituale, serve ad amministrare il patrimonio di salvezza di cui la Chiesa è titolare e che distribuisce ai fedeli nella sua intermediazione, e in ciò sta la grossa differenza con i protestanti, e dall'altra parte è un patrimonio invece di natura materiale, qualche cosa che concretamente può condurre a un risultato di risoluzione di una malattia, di un problema e così via. Da questo punto di vista la sua simpatica bonomia con cui parlava appunto del tenersi il santino in tasca, male non fa, certamente corrisponde a un senso comune. Io lo faccio grande rispetto, però non c'è nulla di irrisorio o una persona a cui ci si può raccomandare, no? Nel senso che ben che vada mi dà dei risultati, mal che vada non mi dà nessun risultato. Ma secondo me questo è vero certamente, ma è sbagliato pensare che sia sempre stata così la rappresentazione della santità e soprattutto l'idea della fede che l'uomo esprime. Noi viviamo in un momento per certi versi di ripristino di un'idea medievale della Chiesa. Molto mediatizzata comunque, diciamo l'aspetto mediatico vale moltissimo. Lei ricorderà meglio di me che nel caso di Padre Pio ci fu una ricostruzione in silicone del volto incorrotto. Il santo è incorrotto perché la grazia l'attraversa. Quando la grazia non è sufficiente a non corromperlo, si mette una maschera di silicone e non cambia nulla nell'atto del fedele nei confronti del santo. Certo, ma guardi Nicoletti, basti, adesso non so, io ho qualche anno, qualche decennio sulle spalle e ho una memoria personale che mi aiuta, ma chi fosse più giovane può documentarsi, questa percezione, idea forte della santità non è stata sempre così. I pontificati di Giovanni XXIII e di Paolo VI furono molto parchi nell'alimentare e nel cavalcare, nel proporre un'idea di religione che passasse attraverso la santità. E beatificarono pochissime persone, usarono con grande parsimonia questo veicolo così antico della Chiesa, e in certi casi, badi bene, qui sta una delle contraddizioni che secondo me la Chiesa non ha risolto, quelle stesse figure, alcune figure poi beatificate da Giovanni Paolo da Papa Wojtyła furono invece bandite dalla Chiesa di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Mi riferisco una per tutte, uno dei santi a cui è legato maggiormente l'idea della taumaturgia, il santo che il cui santino sta in tantissimi ospedali, nelle parti più difficili, eccetera, come aiuto, come sostegno. Umanamente comprensibilissimo e degno di massima stima. Cioè di Padre Pio sta parlandole. Padre Pio, parlando di Padre sì, Pio. Sì, sì. Guardi, mentre lei parlava, io ho sotto mano il libro che ha scritto il mio collega Sergio Luzzatto su Padre Pio. Ci sono delle frasi, delle espressioni di condanna durissima di Padre Pio che appartengono agli inquisitori di Santa Madre Chiesa, che appartengono a Giovanni XXIII. Ne parla di lui come uomo diabolicamente preparato a discredito della Santa Chiesa del mondo. Però questo nella percezione popolare di un santo non ha messo a repentaglio la credibilità del santo, anzi più un santo è perseguitato, è una mia personalissima opinione, più il devoto a quel santo è convinto che questa forma accessoria e questa sfumata lunga di martirio serva a dare lui la certezza che è veramente un santo. E questo è anche un conto che deve fare chi scrive libri come quelli che ha scritto Luzzatto. Poi ogni posizione, se storicamente corroborata, può essere rivista, ricorretta, rimmaginata e riscritta, ma non potrà mai convincere il fedele di Padre Pio, quello che lo invoca 10 volte al giorno, che sia sufficiente un libro portare delle prove documentali per mettere in dubbio la santità del suo santo. Ci fermiamo un istante, professor Carpanetto, con lei, con gli ascoltatori, perché dobbiamo dare la linea alle informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono, devo dire, molto contento perché mi sento un po' palermitano, quindi anch'io devoto della Santuzza, e trovo tante analogie con la nostra Sant'Agata, le reliquie che tornano. Questa è la capitale, quindi Santa Rosalia è la patrona della capitale ed è una santa alla quale ho trovato, devo dire, devozione anche a Milano. È successo il 1 luglio, il direttore generale della sanità lombarda, che si chiama Lucchina, mi ha riferito che deve alla sua devozione per Santa Rosalia una guarigione in famiglia, per la quale sarà da queste parti anche lui, spero di incontrarlo stasera. Per confermare, cioè, sarei tentatissimo di fare un commento da questo entusiasta amministratore locale che dice che Santa Rosalia ha creato miracoli a casa anche del direttore della Santità Lombarda, da cui ci aspetteremo magari delle risposte più legate all'esercizio della professione medica e clinica piuttosto che alla devozione di un santo. Poi lasciamo il giudizio e il commento che ci ascolta. Nessun santo potrà aiutarci questa mattina a andare oltre l'orario previsto. Abbiamo 2 minuti e mezzo scarsi di trasmissione, li dedico ai nostri ascoltatori. Andrea. Sì, buongiorno. Questa mattina, ascoltando l'introduzione della trasmissione, ho scoperto che nel portafoglio ho esattamente il suo stesso santino, San Giuda Taddeo Apostolo, che ricordo mi diede mio padre circa 20 anni fa, quando iniziai la mia carriera universitaria. E non se ne è mai disfatto nemmeno lei? No, assolutamente no. San Giuda Taddeo Apostolo. Abbiamo tutti pure San Giuda, poi si vendichi, come possiamo liberarcene? Io me lo terrò dentro sempre nel portafoglio. Del resto San Giuda Taddeo Apostolo è il protettore delle cause perse, così almeno. Sì, così cioè c'è la novena che inizia tu, che il cui nome ti fa confondere con quello del grande traditore. Esatto, esattamente. Che aveva questa grande sfiga, Giuda Taddeo, si chiamava Giuda. Quello, esatto. Però questo ci fa diventare anche simpatico. Protettore dei casi disperati, infatti me lo diede mio padre quando iniziai l'università. Per ogni esame dice raccomandati. Esattamente, quindi poi devo dire che tutto sommato la vita mi ha portato cose buone da un punto di vista professionale, quindi forse qualcosa è anche perché servito. Non esserne grato. Però... grazie Andrea. Claudio. Sì, buongiorno. Io non ho santini religiosi nel portafoglio, ho santini che sono molto laici e che vengono conservati gelosamente nel mio portafoglio con la stessa funzione. Qua sono i calendarietti dei barbieri, quelli degli anni 60. No, in realtà molto peggio, un personaggio di un cartone animato e di un fumetto che da bambino feci plastificare addirittura. E chi è il personaggio? Si, chiama Hikaru Matsuyama, è un personaggio, il suo nome italiano, diciamo, Mediaset è Philip Callaghan, perché avevano tradotto, è un personaggio della serie animata Holly e Benji, i più giovani ascoltatori lo sapranno, io l'ho plastificato, lo tenni sempre lì perché era un personaggio che mi piaceva molto, ma in realtà è un vero e proprio santino, insomma. Cioè gli attribuisce un potere taumaturgico al personaggio, no, dell'anima? Era l'unico personaggio di quella serie, insomma, di grandi individualità del calcio che puntava sul gioco di squadra, e allora, insomma, mi piaceva molto e decisi, insomma, di identificarmi lui al punto da farlo plastificare e tenerlo nel portafoglio. La ringrazio, Claudio. Claudio, l'abbiamo concluso la trasmissione sui Santi e Santini con un ascoltatore che si è plastificato e santinizzato un personaggio di un cartone animato, e per lui questo ha ugualmente valore. Ognuno ha detto la sua, ognuno resti con il suo pensiero. Il bello è la libertà di espressione, la libertà di azione, la libertà di immaginazione, anche quando si parla di santità. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.